storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Eccoci di nuovo con voi anche stasera. Un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, stasera abbiamo un ospite eccezionale, che vogliamo presentarlo subito perché abbiamo un programma molto vasto, ed è il fondatore e presidente del gruppo folcloristico trevigiano. Allora vi presentiamo il signor Gianfranco Crespan. Buonasera. Buonasera Gianfranco. Buonasera e grazie a voi altri che gentilmente mi avete fatto venire qua. È un onore. Benissimo. Dai, è un piacere. Allora, prima di tutto diamo la parola al nostro Antonio. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici vicini e lontani di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet bluradioveneto.it e il numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti 346 26 20 033. È anche possibile naturalmente l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Non dimentichiamo naturalmente un saluto cordiale al nostro regista Eddie. Sì. Allora, siccome stasera si parlerà di folklore e quindi ci saranno tutte canzoni folcloristiche, cominciamo con la prima che il nostro signor Crespan ci spiegherà. Allora, la prima canzone quale sarà? La strada del vin bianco. Ah, ecco, questa è una strada del vin bianco. Che era due nostri amici cari che purtroppo abbiamo persi, Andrea Cason, che ha scritto le parole, sì, e Corrado Girardi, che ha messo la musica, e segnò fora un, come si può dire, un specchietto delle nostre coine col vin bianco, e una roba simpatica, ecco, che cerchiamo di portare sempre avanti. E chi è che lo canta, che coro, da chi è cantato? Dal gruppo? Sì, dal gruppo folcloristico nostro, sì, sì, okay, sì. Ecco, allora che ci è cultore delle tradizioni, naturalmente, ricordiamo, certo. cultore. E come dire, animatore, nel senso anche fisico, proprio coreografico delle tradizioni trevigiane. Benissimo, allora ci ascoltiamo La strada del vin bianco. Eccoci di nuovo in studio con Gianfranco e le reminiscenze di un'epoca che sembra lontana mille anni, ma è così stata così vicina a noi. Niente, volevamo chiedere al Presidente come la genesi di questo gruppo che tanto ha dato alla cultura trevisana. Ma all'inizio mio, per essere sincero, sono entrato con il coro di Alpina, appunto quello che dicevo prima, uh-huh. il professor Beppi Tomasei, era quello sì. che lo ha fondato nel certo. 49, appena dopo guerra. E ho sentito sti canti, mi sono entusiasmato, era un mio amico che cantava e ho detto dimmi dove che... E insomma ho cantato 15 anni. E a un certo momento anche col coro che siamo andati a Orléans, mandai dal comune, siamo andati in Germania, vedevo che arrivava un gruppo, la simpatia era immediata. Immediata. Non ho detto, guarda, ho sempre desiderato e sempre avuto passione di sta roba. E ora che ho detto, maestro Pagnin, guarda, ho idea. E ora io mi dice, facciamo un patto, gli ha detto. Così, per scarsare, sì, insomma. Sì. E gli dice, se va bene, e ora... Ah, va bene, e ti te va avanti pato strada. Se dovesse andare male, te torni del coro. Va bene, maestro. Una seconda chance, giustamente. Sì, dai, giustamente. Difatti, il gruppo è nato in marzo del 1968 e dopo due mesi mi ha telefonato qui del coro. E dice, guarda che il comune ne manda Orléans. E ne manca tenori secondi. Poi se tu vieni a darmi una mano, picche voi in tiro. Orléans, un gemellaggio, sì, gemellaggio, caspita. Ecco. Che l'epoca era anche Bruno Marton che aveva tutto in mano il discorso. Bellissimo. E ora siamo andati a Orléans e dopo che sono tornato a casa mi sono cavato il coro con me e sono davanti. Non è stata tanto facile. Quindi in sostanza il gruppo folcloristico è nato nel 68. 68, 68 in aprile. Nel 68. E ora i primi inizi non semplici quindi. Non semplici. Mm. Prima di tutto trovare i personaggi. Cosa in costume? Ah no. E ora, se eri in Alto Adige, la roba riuscia. Ecco sì. qua. E invece qua, cosa butti? Cosa... Butta via tutto, ma proprio butta via. Butta via tutto, effettivamente. Butta via i doghi dei bestie, tutto quanto. Tutto. E mi ricordo che mia nonna, che aveva già una certa età, dice, guarda che mi dacea in piazza dei signori che passavo, che era il nonno mio, e che aveva i calze bianchi. Ah. Ah, tu capì, che aveva i calci bianchi, mi diceva sempre per dire che c'è stato un costume che si è passato, insomma, certo, ecco, certo, ma certo. i contadini qui venivano qua a Treviso per vendere, era vestito come casa, ecco. Esattamente. Ben, prima di tutto per trovare i personaggi, per trovare la sede, per trovare la musica, e qua musica che ho trovato Angelo Smessetto. Grande Angelo Smessetto. Mi ha dato una mano, quello sì, proprio, e anche il discorso, anche impostare un baio, e ora andammo da qualche veciota, e ora dice, ecco, i faceva così, e dopo si girava, ecco, e spunto, e gli era, ma minimo. E bisognava ricostruire tutto, dopo trovavamo un altro, diceva no, guarda chi parte di qua, bellissimo, no? E era buon, era un poco di qua, un poco parlando, e Angelo che aveva intuizione, insieme con poco dopo, abbiamo trovato una signora da Castelfranco, la signora Zanini Ungarato, che a prima sera mi ricordo, si arrivava, ha detto, Tosati, gli altri che aveva tanta buona volontà, ma mia, dice, qua posso stare 2-3 mesi, perché ho gli anziani di Castelfranco da insegnargli a ginnastica. Maestra, ho detto, qui o che se va tutto bene. Insomma, c'è stata con gli altri 36 anni. Però, da tre mesi. Ha sega talmente emozionata. Dopo te conosci le storie di uno, sì, dell'altro, certo, che altro. Certo. Ha stata 36 anni con gli altri. E dopo avanti e trovare la sede, intanto che abbiamo cominciato dentro nella mia officina, i miei genitori ci stai anche comprensivi perché sì. all'officina era piena di macchine e ora sera arriva a fare prove, ora le macchine fuori, tutti che spensea, e dopo porte dentro. Ma ciò è il duro, era l'inverno e sì. tose non era, ciò non era, mi vedevo che i gambe cambiava di colore, ma sa freddo a casa, ma importa. E insomma, dopo parlando con Massaroi, con Marton, e dopo che mi trovo a Bernini, presidente della, sì, sì, della sì, provincia, sì. e gli ho detto, no, Tosati, merite qualcosa di più. E ora ne ha dato un bigliettino da visita di un geometra della provincia che ho ancora messo via in cornisa. E ora dice, vada sto signor qua. E io vedemo se... E difatti in via Marchesan che c'era il vecchio brefotrofio, che gli era tutto dismesso. E ora dice, prova a vedere se... E ora siamo messi d'accordo. E ora che era due stanzetti, ci ho avuto questa saria piccola, che altra saria piccola, ben bene, il giro mettiamo una potrea e cerchiamo di allargare. Insomma, che abbiamo cominciato. Ne pare, sai, i piscioli da terra, ben importa. E questo dopo, in che anno? Sempre negli anni 70? 68, sì, 70, 71. Sì. E ora dopo che abbiamo visto che su sto gran paiasso che era altre, sai, saette di sora, abbiamo cominciato a fare queste mostre di tradizioni popolari, del costume, abbiamo ricostruito una cucina della volta con tutti i rami, il fogare, e ora la gente sega un poco e dice guarda ciò, però non siamo fermati, avanti, avanti, avanti, e ora era quello che ti regava il caro, che altro che te, ecco, proprio non quei sfuggiti al coso, alla distruzione totale che c'è stata negli anni 60, insomma, ecco. Gavio anche dei tosati nel gruppo che seria sai da Sciafoni, perché scossemo dai a selva a toro un caro agricolo con altri due careti di una casa che ormai andava tutto, e ora dice Franco facciamo una busa e tutto dentro e diamo una stropata, guarda se non te tasi, ho detto te sciapi. Mi capì, guarda il caro come no, che è, ma no, no, non è semplice, non è comprendere semplice il valore della memoria, del ricordo, soprattutto quando quella memoria, quel ricordo ti fa di tutto per cancellarlo, perché la miseria è per eliminarlo con, e questo proprio è successo purtroppo, cioè, con tante cose. E ora c'è Pau con pazienza, sbassati qua, guarda il ferro, guarda come che si è fatto, quanti colpi, e dopo fa verser che passa il ciolo, quanto che hai lavorato, e ora un po' qua a volta, beh insomma dai. Insomma avete avuto la vostra sede, avete avuto le vostre comodità. Sì, dopo la via Marchesan, dovevi andare dentro il quadrifoglio. Ah sì, il quadrifoglio. Sì, non so se sia ancora lì il quadrifoglio. Sì, sì, sì, che ha sistemato, che ha fatto bene, che se Tullio Giacomini, presidente, è mio amico. Giacomini, sì, Giacomini, ma insomma ha passione di sta roba. E ora noi altri siamo andati a Sant'Artemio, a Villa Zen. E ora anche là, su, col museo, con esposizione, con roba. Insomma, era gusto vedere la gente che arrivava, esatto, che te parli, esatto. Così. Però col gruppo, all'inizio, come che ripeto, è stata durita, con tanti mettere insieme tutti tanti con la stessa passione. Caspita. E dopo le prove di canto le facevate dalla sede, no? Sì, sì, sì, sì, sì. E ora un colpo veniva anche a Corrado Girardi. Sì, delle volte si veniva Pagnin, delle volte si veniva qualche d'un altro, però la maggior parte delle persone che veniva, no, aveva la vostra caratteristica, così, fora, così, qui, e basta. Sì, beh, giusto, è giusto, così. Tu capisci, con la musica che parte, coro e via. Una roba da Payer, da Fio, proprio, che è la caratteristica specifica della quella semplice serenità e felicità altro contadina. Che, altro diciamo, che, ecco. Niente, non potevamo venire dentro e dire così, qua. Aveva la vostra caratteristica. Altrimenti sarebbe falsata praticamente. Se no sarebbe stato un coro... Esatto, naturale, naturale, sì, sì, sì. A proposito di coro, proseguiamo con le canzoni. Proseguiamo, esatto. Ecco, e la seconda? La strada del bosco. Qui c'è poco da spiegare, penso che... ma magari la genesi del brano, allora, capire come si è arrivati. Allora, sì. È il nostro Gianfranco che ce lo spiegherà, eh? Esatto. Sì, in pratica è questa sequia che cantava su estate, qui Fiò, perché è più semplice, più lineare, e ora specie con demo sue case di riposo trovare i nostri anziani, e ora che facciamo questa si unisce anche loro, anche l'auditorio, naturale, certo. Dai, è una roba simpatica, esatto. Insomma. Vediamo, ora ascoltiamo. Allora, la strada del bosco. La strada del bosco è lunga e larga Allora, eccoci di nuovo in studio e proseguiamo la cronistoria della nascita, del proseguo del nostro gruppo folcloristico trevigiano con Gianfranco Crespan. Allora, siamo arrivati che avete avuto una sede in via Marchesana negli anni 70. Sì, sì. Dopo? Dopo la comunità Quadrifoglio io correa una sede. Sì. E ora ne ha detto se spostaimo. E ora che abbiamo detto sì, se spostiamo basteria che fosse un posto da andare. Alternativo. Ecco, sì. E ora se veniamo fuori che a Sant'Artemio, proprio di fronte a Villa di quello del caffè a Coso, sì, sì, adesso sì. Non mi ricordo. Sì, e anche era Villa Zen, e insomma siamo andati volentieri, abbiamo lavorato, abbiamo sistemato, perché anche qui era un poco abbandonata, e siamo stati 20 anni. Là. Sì. Quindi là facevate le vostre prove, sì, le vostre riunioni? Sì, sì, le prove facevamo il piano terra, mentre il primo piano era tutto ad bio a museo, insomma, con i vari che era, come si può dire, a bottega del Scarper, a bottega del Batirame, esatto. A bottega del Fagname. Quindi siccome... avete mantenuto sia la questione folcloristica dal punto di vista della coreografia, del sì. canto, del ballo, sia la rappresentazione fisica proprio di queste botteghe, dei cose. Altro che, dopo erano costumi, che erano usanze nostre. E così, un percorso completo nella memoria. Allora, dopo 20 anni, cioè arriviamo negli anni 90... Era della provincia, era il presidente, era il professor Innocenti, e ora gli dice ciò, quello che avete fatto voi altri meriteria di fare un museo stabile. E ora gli dice, la settimana prossima mettiamo insieme attorno, e di fatti mi ricordo, siamo andati a Visnadel, su una gran casa dei contadini, e gli dice qua staria ben ciò, come cubatura andava bene, ma era vicino a lei, non era più a Treviso. Sì. E ora tira e moe, orca, si salta fuori, dentro, appunto, appena dopo a provincia, nel parco di Astorga, si salta fuori a casa antica, Siesento, dei Mineo, famiglia Mineo, storica, che io aveva abbandonata perché si aveva o costruito, o andai a stare a Carbonera o in qualche altra parte, e era libera. E ora siamo andati a vedere e ho detto guarda che qua sarebbe boh. E ora io pensavo di sistemarla. E siete ancora lì? E siamo ancora lì. Case Piemone. In un ambiente straordinario che è quello della storia. Sì, è una casa del 600, ha tre porteghi, come una volta, sotto mettiamo i carri. Sì. Sì, adesso, come si può dire, il posto comincia a essere strettino. Sì, sì. Ma insomma, cerchiamo di... Sì, anche perché è diventata la sede storica, conosciuta, diciamo, sì, da tutti. Sì, da sì, tutti. Sì. E siete in tanti nel gruppo? Saremo in 35-38 adesso. Quindi fate anche delle manifestazioni fuori Treviso? Sì, sì, sì, dove chi ne chiama, tu capio. E ora mi marico, presento il gruppo, e ora dico, siamo contenti perché siamo stati anche all'estero, siamo stati Camaiò, Marlengo, Povegan, in mezzo al mondo. Sì, dai. Effettivamente, insomma, avete cominciato subito ad andare fuori a fare le vostre manifestazioni? Qua simpatia sì, che ne dico una. Sì. Tanti anni fa siamo andati a Liegi, in Belgio. Sì. Perché ora fa una grossa manifestazione. I ricorda ancora Napoleone. Pensavo. Arriva Napoleone a cavallo con tutti gli armati davanti da Drio, croce rossine, pensavo. Carri, i fana. Proprio una rappresentazione storica. Storica, diciamo. Sì, sì. E ora siamo andati un anno e un nostro amico che lavora a Aldi dice: stai attenti, qua i Sevalloni. Noi i francofoni, quindi sì. E lui dice: Iga, un suo inno, un canto come Fratelli d'Italia. Certo, sì. Se fossi buono imparare, perché ori che tiende tanto, impariamo sto inno. Bon. Siamo su un gran teatro, tutta la gente, e finimo con l'inno Vallone. Mannaggia, Maria Verdi, tutti che si alza, che batte i man, robe che vengono su un soffitto. E insomma, da che simpatia siamo andati in altre 6 volte. Addirittura. A Liegi. Sette in tutto, pensatia. Ormai sempre un'accoglienza straordinaria. Te dico me. E dopo, tanti trevisani che trovai Moa. Certo. Ah, era una roba. E poi oltre al Liegi all'estero siete andati? A Liegi, no? Sì. Ben, più o meno una volta o anche due all'anno un demo. Ma roba più simpatica, se stata nel 69... se mondai a San Martino de Castrossa, sì, che era lì delle macchine bon, antiche, che era l'avvocato Stocchino che organizzava, una bella persona da Venezia, ben importa. E ora è, non che sia un gruppo spagnolo da Siesa, sarebbe vicino a Alicante, è una piccola cittadina, sì, ma in gamba. E ora tipo, scambi culturali, carri e qua, insomma, se passa 44 anni e siamo ancora in amicizia. Ti telefono ancora e siamo anche andati a trovarli e ora bisogna trovarli noi altri. Una meraviglia. Tasi. E mi ricordo la sera che siamo arrivati purtroppo un poco tardito, perché non era come adesso che l'aereo va direttamente. Fatto Venezia, Mian, Mian, Barcellona, Barcellona, Alicante. Va bene. Alicante è una poesia anche di Prévert, vero? Che ah sì. Bene. E insomma, era tardetto, sarà stato un botto e mezzo di notte. E insomma, era tutti acqui del coro. E ne cantava mio compare Giacometto. Ah, no. Che bello! Me lo ricorderò finché vivo, perché trovare in espeta che l'ora era. Esatto. Ma insomma, te pomate, pensa che amicizia. Ma dove che siamo andati, per carità, abbiamo sempre assai il segno come gentilezza, come orari, come tip, esatto, sì. Cioè, gli orari, sì, questo è il fondamento, roba che non altro, purtroppo è questione di civiltà, gli orari, orari, certo. Sta attento tanto, ora che sci e te da essere, hai sì. 5 mesi a te, è giusto, ma scherzi tu dai, perché io rigai su... Beh, giustamente questo, questo rispetto per gli altri, sì, i compagni, sì, quindi che deve essere che fondamentale. Che qui da noi un po' manca. Io so. Qua siamo un po' più pressapochisti. Adesso fate ancora prove, quanto? Due o tre volte alla settimana? Sì, no, sarebbe una volta alla settimana. Comunque avevamo da imparare qualcosa, un baio, un canto, ora facciamo Marti e Sioba. Ma allora per il ballo avete un insegnante, qualcuno? Che avevamo dottose nostre, brave, sì. E ora a Elisa... A Tosa a ciappa in mano il gruppo, per carità, qui so alti, qui so bassi, certo. Perché delle volte sì, basta, non stai a parlare per niente. Come deve fare un maestro, come dire. Questa sia Elisa che segue il gruppo dei grandi, mentre i Cei, che abbiamo messo nome, primue del folklore. Ma i Cei, del folklore. Come sarebbe? Quanti anni sono? Quanti anni? Adesso non so, è preciso, però i Cei. 4-5 anni, sì. Proprio virgulti, proprio, sì, sì, sì. Che bello. C'è da dire che grazie ai genitori. Veramente. Sì, sì, perché c'è la convinzione che serva proprio alla memoria. E ora i Cei va avanti a Simonetta, ecco. Ma i bambini chissà che saranno soddisfatti, saranno sì. I più entusiasti di voi grandi. Ma l'impressione è che essendo presi così piccoli dopo saranno testimoni, sì, loro, certo, di altri, certo, certo. Cioè, per dire la seta è un poco vivaci. Beh, come tutti i bambini. Beh, insomma, dico, insomma, dai, però, i falso mestiere, insomma, pazienza, però saranno i più entusiasti, perché sì, i bambini sì, di sì, solito sì, hanno un entusiasmo che e invece come il coro, chi è che vi insegna a cantare? No, il coro sono davanti a me, che con la santa ho tanto, ma adesso che c'è in mano Francesco, un nostro fisarmonicista, che ha diretto altri cori, e ora è il tira fuori. Francesco, tosati. Che avevo sentito, Francesco? Un validissimo, proprio una persona molto in gamba. Ora così. Ma era un allievo di Smiazzetto? Una volta sì, Francesco, il cognome mi sfugge. Grande, grande angelo, vi ha fatto un proprio da adepti moltissimi, insegnavo anche alle scuole medie, musica, e dopo l'entusiasmo della fisorchestra. Anche Angelo, che aveva un difetto. Sacra non de angelo, non gli era buon dire che de no a nessuno. E ora su un pomeriggio che aveva 3-4 impegni, e magari quindi, l'ultimo siamo un po' alla garibaldina, evidentemente. Questo è come dire l'handicap degli entusiasti. Comunque è uno una che bella... lo fa e che se centellina, diciamo, nei confronti degli altri, non ha questi problemi. Dai, però dai. Diciamo, non ha nemmeno questa capacità di trascinamento e cose di questo tipo. Beh, ma lui veramente trascinava. stava lì ieri, veramente e anche ha una bella fisarchestra. Aveva una bella fisarchestra. Prima si Olga fonda il coro di Alpini e dopo in più il complesso Armonia. Armonia, sì, sì. Che adesso lo porta avanti il maestro Romani, no? Sì, sì, sì. E che, sì, e che continua a fare queste rimpatriate, una meraviglia. E mi dico sempre, Tosati, che aveva entusiasmo davanti, perché è il momento, sarebbe un poco. Non importa, ha maggior ragione, bisogna andare avanti. Bisogna che abbia coraggio chi vaga avanti, esatto, perché i momenti un poco tristi. Se cominciano a mollare dopo è proprio il momento del tenere duro. Allora andiamo avanti con la terza canzone. Andiamo avanti con la terza canzone, che parla naturalmente da buoni contadini, eccetera. Diciamo, me piace il vin de Pergue, e questo richiede una spiegazione. Ecco, del nostro Gianfranco. È questa che ho sentito tanti anni fa dal papà di Attilio Furlan. Indimenticato e grande Attilio. E il papà faceva parte di un coro de Mira Stra, dove chi la dove che viveva era del Brentano. E ora mi parte costò. E ora dopo, ho detto, per farla col gruppo, posso farla, manca rianca qui. E ora ho detto, facciamo un poco più allegretta, perché io andavo ancora con a lirica, ecco come. Allora, ascoltiamo. Me piace il vin de Pergue. Quel che non soffiga in grassa, inega insegna, specie se a parallo zo, riva un vin nostran. Non importa se sia de Pergue o de Frasca, de Bote o de Fiasca, Prosecco o Marzemin. Eccoci di nuovo in studio e appunto con Gianfranco chiediamo ci qualche... ci stava raccontando una cosa molto importante. Degli aneddoti così sono straordinari, uno in particolare. Sì, ne capita, se andai a fare la sagra del Consiglio tanti anni fa e finì lo spettacolo, si presenta Mario Mugliere, insomma, posso dargli a man? Volentieri, ho detto, che capiasso? Sì, ha detto, sì, sempre compagni, ma che ne conto una, dice che mio Mario... l'anno scorso si sta in ospedale perché aveva il fegato che non funzionava, me ha spiegato, ma te sanno se che mi va in cerca cosa e come. A dice che ho sentito voi altri e che ho portato una cassetta vostra del gruppo. Insomma, dice, non dico che ci stai voi altri, ma mio marito ha ciappato talmente un entusiasmo della vita, perché i dottori che dice sempre bisogna che si dà da fare, che ne venga incontro. E invece mio marito si aveva buttato in terra, dire che avaga come che avaga, come che siamo abituati. Insomma, la cassetta andava la mattina alla sera. Insomma, ha ciappato talmente un entusiasmo che, guarda, sono sincera, se uno fora è stanca, benin, bisogna seguirlo, però sono contenta che sia qua. Una motivazione, un motivo per andare avanti. E mi sono smentegato appunto che a sera, nell'entusiasmo che a me contava, che a me dice, signora, mi dia il nome e cognome, perché delle volte mi viene in mente, ma A volte non si è detto che magari in radio non si riesce a sentire. Chissà mai, chissà che magari ci ascolti domenica. quando facciamo proprio magari in streaming quei nostri amici tecnologici, penso che si era a coso, a consiglio, essa, certamente della già, sì, sì, vabbè, ma allora può darsi, ma sì, che conosca mai la trasmissione, non altro si sa mai che, altro perché, che. Chi ci ascolti e che magari si mette in contatto con lei, magari le mandiamo anche qui. Dai, così manco un saluto, perché non lo fa mai male. Certo, ecco. Quindi la rappresentazione dei mestieri, che c'è i balli, ecco, i balli è un'altra, oltre ai canti, i balli è un'altra delle caratteristiche del naturale, gruppo, diciamo. Naturale, sì. E mestieri antichi. A signora Ungarato uniga insegnai insieme con Angelo, perché si trovava fra de ori, appunto per completarli, ecco. E magari che era il centro, ma bisognava in l'inizio e a fine bisognava, e Origa lavora tanto per questo discorso qua. Però è talmente bei, freschi, allegri, sì. I facciamo ancora. I facciamo ancora. Perché anche ne ricordo della signora Ungarato, appunto. E dopo i sebei sempre moderni, sempre attuali. E ora li facciamo ancora. Quindi adesso proseguite sempre con lo stesso stile? Sì. E che progetti avete per il futuro? È futuro, che ne sei diversi, anche... Andate in qualche posto? A fine luglio, fino al 6 di agosto, siamo a Lagenbeck, a Sena cittadina, sotto l'Olanda. Oh, mamma mia. Però, sì, siamo stati 3-4 anni fa. E in paese, sì, un paesotto grosso. Se tanto sentio sta roba. Sì, perché anche una compagnia, per esempio, una compagnia anziani, e ora itaca 2-4 cavalli col carro, che gli va su un campo e scega il fin ancora col falsin, come una volta dopo aspetta che sia su gas sera, io carica sul carro e ora sono immettito a te. Come che si faceva una volta E ora partecipa a sfiata del paese, e se no che ne era, per esempio, i faegnami del paese, ma te dico, io lavora su un campo di terra e ora fa una gran busa con una scaletta che va dentro. E dopo metti un travo, grande, grosso, ben posizionato. E ora uno sopra e uno sotto, con che seghe, che si chiama... Adesso mi scampa una santa. Ben, e ora uno sotto e ora prima io segna e dopo i fatoe. I fatoe. A man. Aman, pensa a Dio. Adesso che è che fa a mano adesso? Nessuno. Ma appunto mi fa per insegnargli i tosati, il valore che della era una volta. Certo. Il valore. Ah, ecco, a sega il nome è Spartidor. Spartidor. Uno sopra e uno sotto. Un nome evocativo, Spartidor, quello che taglia proprio. Bellissimo. Comunque ormai i mestieri di una volta non ci sono più, tutto fanno a macchina. Ma non è detto, c'è qualche il loro, per esempio, esempio, eccetera, sì, viene, esempio, come sì. Dire, viene anche filmato e compagnia, ed è una cosa importante a futura memoria, perché sicuramente l'esigenza c'è. Ormai siamo arrivati a una, come posso dire, uno smarrimento collettivo dove notizie fresche della CGA di Mestre, Bortolussi, eccetera, nel 2020 avremo carenza di mestieri manuali, carenza di persone che praticano mestieri manuali in modo drammatico, ma centinaia di migliaia di posti. Esattamente, quindi significa che la manualità, anche attraverso queste ricostruzioni che sono ludiche, diciamo, che fanno, c'è il gioco, c'è il divertimento, eccetera, ha una funzione sociale, questa memoria. Dai, evidentemente. Se come una signora non mi vicinante per attaccare un quadro, a andare in cerca di un murer, ma ho detto, qua. Ma ragazzo Mario Sofioi per attaccare un ciolo, ecco qua, questo è proprio all'estremo, al limite, è proprio dato. Non hanno più manualità, non c'è più manualità. No. Senti, col martello che c'è paranca una parte, però te ti pare, io che manco. Vabbè, dai, passiamo a un'altra canzone che è molto molto bella, è Benedetto chi che canta, e questo chiediamo naturalmente a Gianfranco che ci dica due parole. Ecco qua, sta qua è nata tanti anni fa, che era Sante Sanon, che era direttore del coro di Fenice di Venezia, montava in treno qua e smontava a Venezia. c'ho i treni in Nuse come adesso che non si sente rumore, una volta i scambi ti senti, e rode in ferro e tutto un repeton, e toton te senti a zonta dei rotaie, e io sei talmente ispirato a sto colpo che il gas mi si ha e che butta una musica. Dopo il gatto va Beppi Massotti che gli ha messo le parole e si mi fuori benedetto chi che canta, chi che ascolta e chi che suona. Che bello! Adesso allora, ascoltiamo. Adesso ascoltiamo. Ecco, torniamo ancora in studio. Beh, devo dire che anche cantano bene, Molto proprio bene. A tempo, poi con entusiasmo, come fosse un coro normale, insomma, veramente bene, vero? Allora, parliamo così un po'. Questi balli in che cosa consistono? Dove vi ispirate? Sì, per esempio Geselbaio. Sì, non sarebbe proprio nostro, ma insomma, dei nostri operai che andai a Napoli a fare un grosso lavoro, gli stai a 4-5 mesi, e ora qui si tornai, dice ben, vedessi a cogese il santo patrono, altro che qua noi altri. Intra luminari e fuochi artificiali, pranzi all'aperto, ben, e dopo il dice vai a un baio. Che bisogna che imparassimo. Ma che baio sia? Sarebbe a Tarantea. A Tarantea. Bon. E ora questo entusiasmo di Tarantea che vuoi imparare anche noi altri, ma non sarebbe nostro. Sì, insomma, no, ma certo. Una variante sul tema. Insomma. Quello che abbiamo ascoltato adesso sarebbe un po' tipo Tarantella. Un prestito, diciamo. Ecco. Ah, questo sì. Benedetto. Sarebbe... Che canta... Sì, è un movimento abbastanza veloce. Tipo Tarantella. Ecco. E anche qua ultimamente a Regione ha fatto anche per incrementare, come si può dire, il folklore, ecco, ha interessato il professor Ulderico Bernardi sì, certo. Anzi che dal microfono che mando un augurio, un grande sociologo, grande cultura della una gran persona, sì. Insieme con Gianni Secco e gli ha fatto appunto sto CD Il Veneto da svelare, sì. E noi altri siamo dentro col gruppo quel giorno che abbiamo ricordato i 40 anni, i 40 anni della fondazione. Quando l'avete fatto? Siamo andati al comunale sì, ma dico quando E ho i 40 anni, ormai si è passato 4 anni. E al comunale avete fatto una piccola rappresentazione? Sì, sì, sì, proprio come che è nato il gruppo. Sì, sì, sì, di tutti. Ieri come in Borghese, siamo partiti da Borghese, mi ricordo che, caspita, mi sorriva in bicicletta, e dopo che bicicletta avevo dentro, no? E Lucien mi fa, ehi là, fermo, ha detto. Ma se che diciamo anche ai biciclette che venga dentro, cosa facciamo, una custodia? E io dico, scusa, sai, ma mi occorre pa' a Sena. Ah, e ora, difatti, sono entrato a bicicletta sul palco del comunale, ho fatto il giro come che sono abituato. Sì, insomma, sì, beh, certo, certo. Facci a parte della Sena anche qui. Esatto. E poi cosa avete fatto oltre questo? Niente, dopo un poco a volta, siccome pomeriggio, insomma, ieri anche entrata libera, te può mannarti. Quanta gente? Signor, ma, gente a go-go. Ma i tosati che ha detto, no, bisogna che facciamo per i tosati, per il popolo, insomma, che ne vuol bene. Esatto. È entrata libera, e sì, di fatti che abbiamo fatto, ma c'è sta bellissimo, una soddisfazione. Bellissimo. Bea, esatto. Dai. Così. E adesso che progetti? E adesso Drio Manche ne capita, e andiamo a qualsiasi festa che abbia bisogno. Ecco, parlavo prima delle case di riposo, che è una roba, credo che sia una delle robe più importanti. Sì. E chiaramente potrebbe essere anche, magari, non dico fastidioso, ma impegnativo, perché vedere purtroppo nostri, diciamo, amici, eccetera, zii, chiamiamoli così, che resta senza famiglia, che resta senza famiglia, che non è tanto neanche più autosufficiente, eccetera, però deve essere una botta di vita straordinaria. Altro che. Andate spesso nelle case di riposo? Sì. E se no mandiamo anche i cei nostri. Ah, sì. Specialmente sotto le feste, da Natale, Pasqua. Anche durante tutto l'anno. Ah. Adesso facciamo il festival qua a Treviso. Quando? Lo facciamo a metà agosto. Dove, facciamo lo spettacolo Signori? In Piazza dei Signori, sì. Dopo andiamo a Casa Piavone. Beh, sì. Al venerdì mandiamo un gruppo ogni casa di riposo. Ogni casa di riposo. Sì, sì. Ah. Santa Buona, quindi Casa Salce, un attimo, sì, Umberto Primo e Menegassi. Sì, che Umberto Primo mi pare che sia chiuso adesso, no? È in restaurazione o no? Quai? Umberto Primo. No, l'Umberto Primo, no, è Zaivani, si è chiuso. Ma ora gli ospiti del Zaivani andai all'Umberto Primo, in Piazza del Grande. Zaivani è chiuso. Sì. Che non c'è tanto, sono passato per Casa Salci. Qui a Santi 40 dalle Francescane siete mai stati? No, non siamo mai stati. Siamo andati tanti anni fa, che gli era a mamma de Reginato medaglia d'oro. Generale Reginato. Sì, mi ricordo, 106 anni. Però siamo fatti anche fotografie. So che Sberzetto andava spesso per le case, anche lui nelle case di riposo. È un'opera meritoria, francamente, perché proprio ridà vita a queste cose. E mi succede, ieri altro sono a Casa Salce, che sono andato a trovare un amico, e che c'è una signora che ho confidenza. Oh, Franco, dai, insomma, Franco mi dica, quando sei che gli è dentro qua, che mi conta i barzetti, così ci appassiamo. E ho detto, signora, mi toccherà venire, ma spero più tardi. Oh, signora. Allora, adesso potremmo continuare, diciamo, con un'altra canzone, un altro brano, diciamo, che è un po' provocatorio, perché con questa calura. Sì. Questo brano si intitola Costaria Marzoina. Questo l'autore è? È il nostro Crespan Gianfranco. Come gli è venuta in mente questa canzone? Niente, che avevo un impegno di andare ai Case Piavone, perché aveva da arrivare una scuoresca, a me pare. Sì. E ciapo a bicicletta e parto da casa in orario, insomma. Sì. E caspita, a Tosa Picea mia, che sarebbe da Sberlotti, ben poco, a me era andata via con la bicicletta, senza di niente. Ma che arrivava sua sera, la metteva la gamba sotto, come chi faceva una volta. Esatto. Insomma, si andava in terra. A me era incalcà a pedivea. E ora ogni giro che facevo faceva toc toc toc. E ora prima ho pensato a dargli due ciaffoni, e dopo ho detto, ma Drio sto colpo qua, aspetta, mi ricordavo de Sant'Esanon, e ora parto con sta aria marsolina che mi fa bene al cuore, mi ripenso il primo amore, parto quelle parole e insomma ho scritto la musica. Ha scritto musica e parole? Sì, sì, tutto dopo Beppi Favaro che ha messo a seconda e Paroidi a seconda strofa. Ma però vedi che non tutto il male viene per nuocere, anche questo. Dai. Poverina, invece che darghe schiaffoni. darghe merito. Appunto. Pensare tu sia ormai. Vabbè, esatto. Ci ascoltiamo questa aria Marsoina. Marcate badoere, remenando robe vece chi vendia per pochi schei, go trova, persa in un mucio de petessi, una scatola de lata pitturata. Come che a goverta, se salta fora un profumo de strafoio appena tagliato, e dopo, odor de mosti, de staia, de panoce brustoeae, e se venu su una nuvola de colori, che se ga pusà sui teeri, a pitturare coine de Battista Cima da Coneian, i campagne di Giorgion da Casteo, i fontanassi del Sil, de Ciardi da Quinto. Intanto che guardavo i magà, sta terra benedetta, può da essa andà via qui Angioeti, perché ho visto marcai, sagre e feste in te i cortili delle case dei contadini, e ho sentito tosati e tose che i cantava, intanto che una smonica che facea compagnia. Voria, che anche voi altri, ascoltando ste musiche del gruppo folcloristico de Treviso, potessi veda i colori e sentire gli odori de sta terra gioiosa e amorosa che una volta ia chiamava e amarca trevisana. Ecco il nostro ospite di nuovo, che carina parlava, sta molto carina, molto carina, bellissima. Ma proprio siete bravi, ma il nostro Gianfranco è un artista. Ma qui sono veramente un artista e un trascinatore. E con cosa si accompagna? Cos'ha, una pianola? Nostra musica? Per insegnare musica. Sì. Ah, no, siamo poi fisarmoniche. Ah, fisarmonica è proprio lo strumento avevamo tipico. Avevamo dei momenti brutti e avevamo solo che una tosa qua fisarmonica, a Margherita. Difatti eravamo a sua capea maggiore, a Sora Vittorio Veneto, e ora amico il tambureo e a qua fisarmonica. Margherita ha detto, che facciamo in qua? Perché purtroppo uno non viene che altro. Dice sì, bisogna, e di fatti disegno fuori una giornata, perché contessi in pochi, se esalta ancora. La gente era soddisfatta, ben importa. Adesso siamo arrivati che abbiamo 5 fisarmoniche, che avevamo un contrabbasso, Il contrabbasso. Di come posso dire, funzionale al sì, vostro tipo effetto, di perché sì. Cioè dal numero e dal colpo giusto, avevamo Alessandro un po' a chitarra, insomma, come musica bel parco strumenti, sono contento, sì. Ecco. Ma tutta gente di una certa età o tutti i fisarmonicisti? No, per esempio Angeo Smeassetto ne ha suo complesso armonia, che aveva tira dentro un tosatel da San Cipriano de Roncade, mio compaesano, ecco. E insomma sto ceo bravo anche, ma per dire la seta non si trovava. Non si trovava bene. Io che piacere, robe qui. Sì, sì, sì. Era mio portaangelo, una sera dice Franco, sto tosato, se partì. Maria Vergine, tuo angelo, sono qua per ringraziarti perché mi aveva promesso un allievo 3 anni prima. Ben poco. Insomma, sto cielo parte, angelo lo ha seguito finché dopo si sta male, che non si più vede. Sì, sì, però il cielo ha continuato a venire. La vedi ancora, insomma? Sì, sì, sì, sì, bravo tosatello. E orco. No, no, da che lato è, siamo contenti. E tutto sta di tenere duro, andare avanti con, certo, l'entusiasmo, certo. Esatto. E anche a delle volte sento anche persone che vengono che manca una risposta, sì. Bisogna parlare con gente, occorre, perché occorre. Se insomma non si aiuta neanche tra condomini, questo è un dramma, un dramma che noto recentemente, è proprio a risposta di un saluto, no, che sei. Assolutamente. E quindi è un segno di profondo disagio, non di maleducazione, penso, ma proprio di profondo disagio esistenziale, a quelli che crede ste robe, esattamente, ma bisogna ritornare, anche perché un sorriso, una parola eccetera non costa niente. Ognuno ma è di sé. Fondamentale importanza, perché siamo esseri sociali e sociali. Se no, ognuno può dare in mezzo al bosco e erano cose. La gente pensa a se stessa, basta. Ma dirò che probabilmente non ha, come dire, modo. Molti hanno molte cose da dire, ma non hanno voce. Noto questo, che noi manca la capacità di esprimersi, per paura di essere considerato importuno. Ma da voi in paese forse meno? Ancora, ma da noi è veramente... Paesi, città purtroppo è un dramma, è un dramma effettivamente che bisogna... E mi qui tosati mi, anche a tempo in drio, era tutti centaio, ho tosati stetenti qui, si apporta. Vieni dentro un saluto e un sorriso, certo. Sì, no, purtroppo bisogna assare i brutti pensieri che tanti li ha, e a boeta che scade, però bisogna assarli da una parte, esattamente. Sì, no, assolutamente, sono un po' come gli attori sul palco del teatro, cose del genere, se si trasforma. se diventa quei che si deve rappresentare. Sono momenti di aggregazione molto belli, assolutamente, fondamentali. Molto pareva che fosse una cosa così, adesso si capisce l'importanza di questa aggregazione, di questo trovarsi insieme nei momenti, diciamo, tristi, ma soprattutto nei momenti piacevoli. Questo è fondamentale. Perché insomma qui in città veramente non si conosce nessuno. Bisogna ricominciare a parlare, bisogna reinventarsi. C'è un cambiamento che delle volte mi accorgo un cammino che non è tanto, sì, anche a Treviso mi passo in bicicletta e vado uno e se va bene, guardo che altro anche perché le persone cambiano, dopo che passi il ponte San Martino tutti sentai ma che c'è un momento proprio di smarrimento collettivo, questo è bisogno, e questa ancora praticamente che c'è il gruppo eccetera e la cultura che rappresenta è fondamentale, naturale, perché venerà buon domani, dopodomani, eccetera, cosa straordinaria. Oppure sono seduti sulle ringhiere davanti a Goppione, cosa fanno seduti sulla ringhiera? Il problema è che è una mancanza di motivazione, capisci? Cioè, se non c'è uno stimolo ad andare avanti, se non c'è fiducia nel futuro. Altro che. È stata ricostruita l'Italia dopo le due guerre da gente che non aveva niente. Oggi rischiamo di andare a remengo ancora, sì, come perché con i soldi in tasca. Quindi bisogna imparare a cambiare mentalità, imparare. Dai, altro e che. Questo è il, purtroppo è una, come posso dire, sono delle considerazioni che bisogna fare, anche perché dopo possono non essere condivise, ma io credo che insomma è qui da vedere come funziona il mondo, no? Adesso fate vacanza o continuate tutta l'estate? No, avremo diversi impegni. A parte quello di fine luglio, dopo cosa avete in agosto? Sì, dobbiamo andare anche a Castel Ruanzuolo, che ha una sagra, e stasera, non so se sono presente, che se da Miron, che è il ristorante a Nervesa, e vuol fare una rievocazione su cui tagliava il formento a man, la festa del grano, e ora qui che sei liberi stasera vai a fare un contributo e fa un po' i decanti, vediamo se può fare qui vai, ecco. Bene. Beh, allora ascoltiamoci l'ultima canzone, perché stiamo arrivando così in direttura d'arrivo, come sempre trafelati, perché velocissima, molto veloce. Andiamo con l'ultima canzone, che è In Longo e In Largo. In Longo e Largo. detto che chiaramente una parola di presentazione merita. Ah, ben volentiera. Questa, un certo momento, il coro de Valdobbiadenes sta senza maestro e io riga a domandare al maestro Pagnin qua de Treviso, della Stia Alpina, se andava su per far dei prove. E ora una sera che i totosati venivano anche a voi altri perché mi dè una man, perché purtroppo così finì le prove e non mi ha saputo venire a casa. Ah, beh no. E ora niente, siamo partiti con le macchine, ho fatto le prove e tutto. E dopo salta fuori uno, dice: adesso andiamo a trovare Remo. Ma dice: dobbiamo andare a casa perché ci stiamo. No, no, no, no, no, bisogna che andiamo a trovare Remo. Andiamo da sto Remo e tira fuori una soppressa, scomincia a tagliarla. Ah, per carità, avuto maestro, qua non andiamo più a casa. Ecco. Vabbè. E ora che attaccai i tosati in lungo e in largo per il Veneto, si arriva a San Pier de Barbossa, perché gli era del paese, sto Remo gli era da San Piero, sì. E ora non ti dico cosa salta fuori. E questo è il titolo della canzone, ecco, in lungo e in largo per il Veneto. Veniamo a dire al merito ciò, se poi finir dicendo che asena terra piena de bei paesi e de buona gente, un giardin ridente che invoglia a cantar. Eccoci di nuovo in studio e qui siamo, come al solito, ormai giunti alla fine, agli sgoccioli troppo sì, velocemente, troppo anche velocemente. Perché in particolare questa volta abbiamo canti e suoni di tempi che sembrano così lontani, in ma realtà belli. Sono il nostro passato prossimo, certo, che dobbiamo ancora riscoprire, certo. E svelare e risvelare. E questo tutto lo dobbiamo al nostro Gianfranco Grande, Crespin, ecco, alla volontà, alla pervicacia, diciamo, di ringrazio voi altri di questa bella sorpresa che mi avete fatto. Che speriamo poi di rivederlo. Ah, dai, volentieri. In futuro, se abbiamo, se sì, anche perché abbiamo piacendo, tante avremo cose da contare. Certo. Non so mai finire. Chissà quanti aneddoti che ha ancora da contarci, vero? Per carità. E quante canzoni dobbiamo ancora ascoltarci. Ecco. Vabbè. No, volentieri. Noi la ringraziamo e la salutiamo con tanto affetto. Grazie a voi altri e buona serata. Ecco, Antonio, allora con te e con Gianfranco e con il nostro Eddie diamo a tutti una buona e serena notte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.